Ti respiro dalla nuca, lì dove all'attaccatura dei capelli serpeggia il tuo odore, e penso che dall'altra parte, nel tuo di fronte vuoto, le rughe crettano il pallore verde in cui affonda il tuo sguardo che scivola profondamente nel viola delle occhiaie. Scivola lentamente anche il cuore, sciogliendosi come gesso fra dita sudate, mentre stremato chini il capo per favorire il mio annusare. Soffro con te la gioia della solitudine, mentre osservo un fenomeno ormai più unico che raro, un moscondoro verde brillantissimo scivolare, goffo ma sontuosamente, fra i petali folti, grassi e umidi di una bianca rosata rosa, detta mi pare luce o pelle di luna, pelle polposa di luce di luna. Corazza serica rabbrividita di brina, moscondoro la lince la lancia, nostra brama di solitudine linciata.